Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Gloria del padre. E questo è il significato del nome Cleopatra. Ultima regina del regno tolemaico d'Egitto, la mitica e affascinante sovrana è probabilmente la più famosa di tutti i re che hanno governato sulle terre rese fertili dal fiume Nilo. Le gesta di Cleopatra hanno ispirato nei secoli schiere di scrittori e artisti che con le loro opere hanno contribuito a far nascere la leggenda della bellissima seduttrice che riuscì a conquistare due dei più potenti uomini del suo tempo, Giulio Cesare e Marco Antonio. Da William Shakespeare a Geoffrey Chaucer, da Vittorio Alfieri a George Bernard Shaw, da Massenet a Giovan Battista Tiepolo a Delacroix. Sono moltissimi gli artisti che hanno dedicato le loro opere al mito, alla bellezza, alla determinazione e alla passionalità della grande Cleopatra. Bellissime attrici di grande talento hanno prestato il proprio volto per immortalare sul grande schermo le sue avventure. Ma non v'è dubbio che il film più famoso sulla grande regina è quello prodotto dalla 28th Century Fox nel 1963 per la regia di Joseph Mankiewicz. Non si era mai visto niente di simile a Roma nel corso dei secoli. La pellicola, che doveva costare 2 milioni di dollari, arriva a circa 44, facendo rischiare il fallimento ai produttori e rendendo Cleopatra uno dei film più costosi mai prodotti nella storia del cinema. 2 anni di riprese, prima a Londra e poi a Roma e Ischia. Migliaia di comparse, scenografie e abiti sfarzosissimi, tra cui un manto per la regina interamente tessuto in oro zecchino, cachet milionari per gli interpreti. Ma il costo non è l'unico primato da attribuire a questa mastodontica produzione. Essa è ricordata soprattutto per un avvenimento che si verifica durante le sue riprese e che catalizza l'opinione pubblica, trasformando il set in una fucina di gossip presa d'assalto dai paparazzi di tutto il mondo. Basta solo ricordare i nomi dei due protagonisti principali, Elizabeth Taylor e Richard Burton. Oggi Destini Incrociati vuole raccontarvi la storia incredibile di quella che è stata considerata la coppia più chiacchierata del XX secolo. Un uomo e una donna che, incontrandosi, hanno cambiato per sempre il corso delle loro vite tra passione estrema, matrimoni, epici litigi, divorzi, alcolismo e disintossicazione. Sei grassa, però te l'hanno mai detto che sei una bella ragazza. Richard Burton ha una ferma consapevolezza. Lui non è come tutti gli altri. Tutti sono ai suoi piedi, quelli di lei, si intende, di Liz. Elizabeth Taylor, la star, quella che ha preteso e ottenuto $1 milione per interpretare Sua Maestà la regina Cleopatra. E che di certo un po' Sua Maestà si sente. Beh, a lui non interessa. Sì, è una bella donna, questo è vero. È anche una brava attrice, con tanto di Oscar. Dicono che chi guarda nel viola dei suoi occhi non possa più staccare lo sguardo. Ma lui è Richard Burton, di donne ne ha conosciute 1000. Una in più, pur se con gli occhi viola, cosa vuoi che sia? Ecco perché si è preparato quella frase. Gli hanno detto che Liz, che poi non ama essere chiamata Liz, odia che si sottolinei la sua rotondità. Quindi, fin dal loro primo incontro, Dick ci tiene che lei sappia come la pensa, sappia che lui non si considera un miracolato perché interpreterà un film al suo fianco. E meno male che la frase che si è preparato è corta. Dura giusto il tempo che il viola di quegli occhi lo trafigga e il gioco è fatto. Quella donna gli è entrata nelle vene e non ne uscirà mai più. Altro che strategie su come maneggiare una donna. How to handle a woman, mark me well, I will tell you, sir. The way to handle a woman is to love her, simply love her, merely love her, love her, love her. Negli studi allestiti alla 28th Century Fox a Cinecittà per la produzione del peplum colossal Cleopatra, Elizabeth Taylor e Richard Burton sono uno di fronte all'altra. È il 22 gennaio del 1962. I due divi si stanno guardando, occhi negli occhi. In realtà non avrebbero mai dovuto incontrarsi. Burton non avrebbe mai dovuto interpretare Marco Antonio e le riprese del film avrebbero già dovuto essere finite per quel tempo. Ma le cose non sono andate come auspicavano i produttori e queste riprese si stanno trasformando sempre più in un'impresa elefantiaca che qualcuno già timidamente definisce maledetta. I due attori però non sembrano toccati da quanto avviene loro intorno. Si stanno guardando e tutto quello che hanno vissuto fino a quel momento, le loro famiglie, le loro carriere, perfino loro stessi, sembrano dissolversi in una nuvola viola. Elizabeth Taylor è già una diva quando approda sul set di Cleopatra. Ha 28 anni e un'invidiabile carriera alle spalle. Il suo esordio al cinema risale infatti a quando ha solamente 9 anni. A 11 interpreta Torna a casa Lessie e l'anno dopo si conquista lo status di bambina prodigio quando è a fianco di Mickey Rooney in Gran Premio. Da quel momento è una star, addirittura frequenta le scuole all'interno degli studios della Metro-Goldwyn-Mayer. La sua non è una vita come quella di tutte le altre ragazzine della sua età, né mai lo sarà. In un'intervista rilasciata nel 2006 al Larry King Show, la diva, parlando della sua profonda amicizia con Michael Jackson, spiega che il suo legame con il grande cantante è dovuto al fatto che entrambi hanno avuto un'infanzia terribile. Siamo molto simili. Entrambi abbiamo avuto un'infanzia orribile. Lavorare a 9 anni non è avere un'infanzia. Michael poi ha iniziato a 3. E questa sicuramente non è un'infanzia. Forse è questa giovinezza rubata, questo dover crescere troppo in fretta che porta Elizabeth a sposarsi a soli 18 anni. Tra un film e l'altro, Un posto al sole con Montgomery Clift, Il gigante con James Dean, La gatta sul tetto che scotta con Paul Newman, Improvvisamente l'estate scorsa con Katharine Hepburn, Liz sposa prima Nicky Hilton Jr., erede della famiglia Hilton, ma il matrimonio dura solo 6 mesi. Convola quindi a nozze con l'attore Michael Wilding, dal quale ha 2 figli, Michael e Christopher. Poi sposa il produttore Mike Todd, che muore tragicamente in un incidente aereo e dal quale ha una figlia, Liza. E infine pronuncia il suo quarto sì al cantante attore Eddie Fisher, rubandolo alla moglie, l'attrice Debbie Reynolds. Ecco chi ha di fronte Richard Burton in questo momento. Una donna che ha al suo attivo 4 mariti e 3 figli, almeno una 30 di film girati e un Oscar appena ricevuto per Venere in Visone. Una donna che ha soli 30 anni è come se avesse già vissuto 2 o 3 vite, passionale, eccentrica, terribilmente bella e altrettanto brava. In un'intervista rilasciata al Dick Cavett Show del 1980, l'attore sottolinea proprio questa caratteristica di Elizabeth. Penso che sia una delle attrici più sottovalutate dello Star System, ma una delle più brave. Estremamente sottile nella recitazione, incomparabile. La stampa ha sempre parlato della sua incredibile bellezza. Nessuno può credere che qualcuno dotato di una così grande avvenenza possa anche avere il dono di una recitazione superba. Ma lei è un'attrice davvero superba. E io credo che prima o poi Elizabeth diventerà un cult. E la gente si renderà conto di che grande attrice sia stata. E se non le dispiace, non dirò niente di più su Elizabeth Taylor. Ma Elizabeth, che cosa vede la bellissima Liz di fronte a sé? Che effetto le fa quel possente giovanottone che le sta davanti e che pare già perso nei suoi occhi viola? Beh, è indubbiamente molto affascinante. Richard Burton, alto, ben piazzato e con una voce calda e profonda. Elizabeth è molto sensibile al fascino maschile. Lo testimonia il fatto che si è già sposata parecchie volte. Dovrebbe esserci abituata agli uomini belli, ricchi e potenti e soprattutto agli uomini che pendono dalle sue labbra. Lei che è considerata la seduttrice di Hollywood per eccellenza. Ma quest'uomo che le sta di fronte le fa un effetto pazzesco, qualcosa di mai provato fino a quel momento. Saranno le sue origini, visto che viene dal selvaggio Galles. Sarà che un attore come lei, sarà che a parole le ha detto che è grassa, ma con gli occhi intendeva tutt'altro. Anche Richard Burton arriva sul set di Cleopatra avendo già conquistato una discreta fama. Originario del Galles, il suo vero cognome è Jenkins ed è il penultimo di 13 figli di un minatore. Nonostante la sua sia una famiglia di origini piuttosto umili, riesce addirittura ad andare a studiare a Oxford, dove si appassiona al teatro classico e alla recitazione. Comprende subito che è quella la sua strada. All'inizio fa leva soprattutto sul suo aspetto fisico. È decisamente prestante, bello, virile e lo scelgono più per il suo aspetto esteriore che per le sue qualità di attore. Ma lentamente le sue capacità di interprete duttile e intelligente prendono il sopravvento. Un contratto con la Fox gli procura parti importanti in film di grande successo come La Tunica, I Giovani Arrabbiati, Alessandro il Grande, Il Giorno Più Lungo. E ora la sua presenza sul set del Colossal Cleopatra è un fatto assolutamente non previsto. Anzi, per l'esattezza, quel film doveva essere tutt'altra cosa. In origine il regista incaricato è Ruben Mamoulian, che vorrebbe come protagonista femminile l'attrice afroamericana Dorothy Dandridge. Giulio Cesare è interpretato da Peter Finch e Antonio ha il volto bellissimo di Stephen Boyd, reduce dal successo di Ben-Hur accanto a Charlton Heston. I cosiddetti peplum colossal, film storici in costume ambientati in contesti biblici o nel periodo greco e romano antico, sono molto apprezzati a Hollywood negli anni 60 e questa moda si diffonde rapidamente anche in Europa. Si tratta di un genere riscoperto che ha un suo fulgore negli anni di inizio secolo con il cinema muto e che vede in Cleopatra una figura fonte di ispirazione per molti registi. Insieme a Ben-Hur, i Dieci Comandamenti, Quo Vadis, arriva quindi anche il turno di un remake sulle affascinanti avventure della regina d'Egitto più famosa e idolatrata. Un film che, per volere dei produttori, desiderosi di contrastare il nascente successo della televisione, deve essere il più luccicante, smagliante e meraviglioso che si sia mai visto. Quando i dirigenti della 28th Century Fox decidono di realizzare il Colossal Cleopatra, ritengono di non dover badare a spese. Vengono scelti i migliori costumisti, viene data carta libera agli scenografi che ordinano piante esotiche, animali di ogni provenienza, ricostruzioni faraoniche nel vero senso della parola. Gli studios di Londra si trasformano in una magica riproduzione dell'antico Egitto e tutti coloro che lavorano al progetto sono elettrizzati dall'atmosfera che si respira e dal senso di onnipotenza creativa che la carta bianca dei produttori avalla. Insomma, ci si lascia un po' prendere la mano, tanto che quando il regista Mamoulian se ne va, forse spaventato da una produzione tanto impegnativa, il neo arrivato Joseph Mankiewicz si ritrova per le mani un film che è già costato 5 milioni di dollari senza avere ancora girato nemmeno un metro di pellicola. Ma i problemi non finiscono qui. Peter Finch e Steven Boyd non firmano i rispettivi contratti, vista la lungaggine delle riprese che li bloccherebbe per troppo tempo su quel set. Mankiewicz ha per le mani una vera patata bollente, ma almeno ha una certezza. Per la parte di Cleopatra, i produttori hanno deciso di scritturare la regina delle attrici del momento, il volto più bello di Hollywood, Elizabeth Taylor. Liz era perfetta per la parte. Aveva una bellezza esplosiva, il giusto tocco di glamour e divismo, e poi era considerata anche lei, come Cleopatra, una mangiatrice di uomini, visto come si era presa Fisher rubandolo alla Reynolds. Peccato che la sua risposta arrivò come una bomba, rischiando di far esplodere tutto. Quel film sembrava proprio nato male. In effetti, la risposta di Liz non tarda ad arrivare. Dopo aver sentito la proposta della 28th Century Fox, l'attrice sta pensando a cosa rispondere, e poi ha una folgorazione. Se mi vogliono, il mio cachet deve essere commensurato alla grandiosità della produzione e alla magnificenza della regina del Nilo. Voglio $1 milione. $1 milione. La richiesta della Taylor raggiunge i produttori della Major come un fulmine a ciel sereno. Certo, lei è favolosa, ha tutte le carte in regola per fare la fortuna di quella pellicola così importante per loro. Ma santo cielo, $1 milione. Quando mai si è sentito di un cachet così alto per un'attrice? E in più la diva ha fatto capire che non vi è alcun margine di trattativa, o prendere o lasciare. E i produttori prendono. Si calcola che fra contratto iniziale e diritti sugli incassi, Elizabeth Taylor ottiene circa $8 milioni, più o meno l'equivalente di una cinquantina di milioni odierni. Sicuramente un record. Ma poi, quasi subito dopo la firma del contratto, capita un imprevisto che pare ancora gettare un'ombra sul film. Liz sta male, anzi malissimo. Forse a causa del cattivo tempo che imperversa sui cieli londinesi, l'attrice contrae la polmonite. Mentre si trova a letto sofferente, dimostra ancora una volta il suo grande carattere. Più che demoralizzata dalla malattia, è profondamente arrabbiata. C'è tanto da fare, il set di Cleopatra l'attende e lei è lì, prigioniera di quel virus. Ad un certo punto non respirai più. Mi sentivo soffocare e caddi in coma. Fui portata d'urgenza in ospedale dove mi praticarono la tracheotomia. Se non lo avessero fatto, sarei certamente morta. Liz Taylor ha una tempra forte e si riprende, ma la cicatrice dovuta alla tracheotomia deturpa il suo magnifico décolleté. Nel frattempo, mentre è ancora convalescente e fa fatica a parlare, vince il suo primo Oscar per Venere in visone. I don't really know how to express my gratitude for this and for everything. Finalmente Liz ritorna sul set di Cleopatra. Benché i truccatori siano bravissimi nel nasconderle la ferita, in alcune inquadrature del film è possibile scorgerla. Ma non importa. Sono i suoi occhi viola che monopolizzano l'attenzione di tutti coloro che la guardano. Elizabeth va avanti per la sua strada. I medici però sono categorici. Il clima umido e freddo di Londra non le fa bene. Dovrebbe andarsene un po' in riviera, al mare o in un clima più mite. E poi il cielo carico di nubi di Londra non ricorda molto il clima arido e asciutto dell'Egitto. Senza contare che tutte le piante esotiche portate in Gran Bretagna dall'Africa sono morte di freddo. È così che tutto l'immenso carrozzone che si porta dietro una produzione faraonica come quella si trasferisce a Cinecittà e tutto deve essere ricostruito. Roma, la meravigliosa città eterna, accoglie regista, aiuti, tecnici, scenografi, costumisti, una moltitudine di comparse oltre a quelle ingaggiate sul posto. Per la parte di Giulio Cesare viene scelto Rex Harrison, mentre per quella di Marco Antonio la produzione opta per il giovane Richard Burton, che ha già interpretato un peplum colossal, La Tunica. Brooke Williams, amico di Burton, ricorda come si svolse la trattativa. Richard stava recitando in Camelot a Broadway con Julie Andrews e la Fox contattò la produzione del musical per farlo recedere dal contratto, ma i produttori di Camelot risposero che non se ne parlava neanche. Allora la Fox fece un'offerta che non poteva essere rifiutata. Un quarto di milione di dollari per liberare Richard Burton dal contratto con Broadway. E la Fox si aggiudica il suo bel Marco Antonio, l'attore bravo, bello e virile che si ritiene possa sostenere un ruolo vicino alla diva, la incommensurabile Elizabeth Taylor. Ed eccoli ora l'una di fronte all'altro, affascinanti, giovani, ricchi e famosi, e tutti e due sposati. Anche Burton infatti ha una famiglia. La moglie, Sybil Williams, è anche lei un'attrice e hanno due bambine, Kate, di 4 anni, e Jessica, appena nata. In realtà i due attori si incontrano fugacemente anni prima, nel 1953, a bordo della piscina della villa dell'attore Stuart Granger, a Bel Air. Ma in quell'occasione Elizabeth Taylor trova Burton poco signorile e non le piace affatto, e lui la trova solo bellissima. Ora invece le cose sono differenti. Liz si aspettava di trovarsi di fronte a un uomo rude, forte, aggressivo. Invece Burton si rivela da subito sensibile, premuroso, gentile. E scatena in lei un istinto materno che mai nessun uomo adulto le ha provocato fino a quel momento. Saranno anche impegnati sentimentalmente tutti e due, ma questo non può fermare la passione che immediatamente li attrae l'uno verso l'altra. Un colpo di fulmine che si abbatte su una produzione già di per sé teatro di incredibili e imprevedibili colpi di scena. Destini incrociati. Sarò punito dagli dèi perché proverò a rubare loro il fuoco. E quel fuoco, naturalmente, sei tu. La passione che Richard Burton prova immediatamente quando incontra Elizabeth Taylor il 22 gennaio 1962 a Roma, sul set del Colossal Cleopatra che li vede protagonisti, traspare dalle molte lettere che l'attore scrive alla divina Liz. Quando i loro sguardi si incontrano per la prima volta, Richard nella sua tunica d'antico romano, Elizabeth con gli occhi viola marcatamente truccati da Cleopatra e il favoloso costume di Irene Sheriff, i due stentano ad emettere più che alcuni balbettii. Il commento di Burton alle rotondità di Liz, il banale complimento che le fa, colpiscono la diva abituata a ben altri corteggiatori. La fama di Burton, grande seduttore, lo precede ovunque vada e Liz, solo alcune ore prima, confida al suo parrucchiere di non voler essere un'altra tacca al cinturone di quel gallese. Ma poi tutto cambia. Forse anche perché Richard arriva sul set coi postumi di una sbronza e Liz lo aiuta a bere un caffè reggendogli la tazzina. Lo capisce bene, anche lei è una che spesso e volentieri alza il gomito. Da quel momento qualcosa scatta in lei. Mi intenerì vedendo questo suo lato così umano. Era talmente vulnerabile, dolce e scosso, così incredibilmente svanito e labile, che io nel mio cuore non potei fare a meno di abbracciarlo con tutto il mio affetto. Le scene d'amore, parecchie in verità, che i due divi devono girare per esigenze di copione, si trasformano in qualcosa di diverso dalla pura recitazione. Man mano che i giorni passano e la coppia si affiata sempre di più, la rappresentazione della passione tra Antonio e Cleopatra diventa la realtà dell'amore tra Elizabeth e Richard. Jack Brodsky, reporter sul set di Cleopatra, racconta un divertente episodio. In una delle loro prime scene d'amore successe un fatto incredibile. Quando la scena fu finita, il regista disse «Stop!», ma loro due continuarono a baciarsi. Allora il regista ripeté «Stop! Stop!», ma loro non si staccavano «Stop! Stop!» e loro continuavano a baciarsi. Allora uno degli attrezzisti di scena urlò «Ehi, quei due fanno sul serio!». Dovette andare lì un assistente che toccò Richard sulla spalla e allora i due riemersero dalla loro passione. E poi, naturalmente, tutti si misero a ridere, compresi loro due. Né Elizabeth Taylor né Richard Burton fanno alcunché per contrastare il loro sentimento. Semplicemente non possono. L'elettricità che si sprigiona dai due divi quando sono insieme è reale, tangibile, e tutti se ne accorgono. E ben presto la notizia si diffonde. Il set di Cleopatra riserva ancora una sorpresa, se mai ce ne fosse bisogno, dopo tutto quello che è successo da un anno a quella parte. Le orde di fotografi che già stanno bivaccando fuori da Cinecittà, nella speranza di rubare qualche immagine della diva dagli occhi viola, del giovane prestante gallese, ma anche di tutti gli altri attori di Hollywood che si trovano su quel set colossale, si trasformano in una fiumana di reporter, affamati di notizie su quello che pare lo scoop del secolo. La Taylor e Burton, giovani, bellissimi, ricchi, famosi e soprattutto sposatissimi e con prole, pare abbiano una storia d'amore nata sul set. Magari è tutta una montatura organizzata dai produttori del film che vogliono fare un po' di pubblicità a quella loro produzione milionaria, ma non si sa mai. E se invece fosse tutto vero? La storia d'amore tra Elizabeth Taylor e Richard Burton è oramai di dominio pubblico. Sbocciata sul set del Peplum Colossal Cleopatra, girato a Roma, Cinecittà, la passione fra i due divi, entrambi sposati, scatena migliaia di fotografi che li seguono in ogni loro spostamento, ma non solo. La loro vicenda, che fa partire dalla capitale sia il marito di Liza e di Fisher che la moglie di Burton, Sybil, viene commentata niente meno che dal Vaticano stesso, che condanna il comportamento delle due star, giudicandoli irresponsabili e di cattivo esempio. Liz viene addirittura descritta come una cattiva madre alla quale andrebbero tolti i figli. Mentre Liz sta leggendo i giornali che riportano la storia della sua passione con Burton, soffre molto. Lei adora i suoi bambini e non può leggere cose simili. Nonostante questo, è follemente innamorata, come non lo è mai stata, e sa perfettamente che nulla potrà mai cambiare i suoi sentimenti. E quando Richard le propone una fuga romantica in una villa sul mare vicino a Roma, che ha affittato per stare con lei, non ci pensa neanche un secondo e accetta. È molto ingenuo Burton. Crede di potersene andare in giro per le spiagge romane con Elizabeth Taylor senza che nessuno li noti. Naturalmente questo non accade, al contrario. I due innamorati vengono braccati da orde di giornalisti e devono asserragliarsi in casa. Burton, che tiene un diario per tutta la sua vita, ricorda così. Bevemmo fino allo stordimento. Non potevamo uscire, non eravamo sposati. Giocavamo a Jim Rummy e vinceva sempre lei. Facevamo l'amore in maniera disperata. Non mi ricordo più come fu, ma ad un certo punto lei disse che si sarebbe uccisa per me. È facile a dirsi, risposi, ma nessuna donna si ammazzerebbe per me. Lei prese una scatola di sonniferi che aveva con sé e disse che ne era capace. Fallo, le dissi. E lei ingoiò una bella manciata di pillole, con gusto, senza drammatizzare, sorridendo. Pensai che fossero vitamine, ma poi si addormentò. E io non riuscii più a svegliarla. E allora capii che non aveva affatto recitato. Un ricovero urgente e la lavanda gastrica salvano la vita dell'attrice. Ma è chiaro a tutti, fin dalle prime battute, che questo è un amore disperato, forse troppo forte, quello che Liz definisce anni dopo l'infelicità per tutti. Eddie Fisher, il marito tradito e abbandonato, ricorda quel periodo. Elizabeth aveva un bisogno disperato di emozioni e la nostra relazione si era trasformata in un matrimonio. Il benessere per lei non era sufficiente. Aveva bisogno di scenate, di liti e di riconciliazioni, di porte sfondate. Fu subito chiaro che era impossibile per lei rinunciare a quello che aveva trovato in Burton. I suoi punti deboli, l'alcolismo, la sua asprezza e la rabbia che sfociava in violenza, lei li prendeva per indipendenza e sicurezza. Lo vedeva come un eroe. Colpi di scena pazzeschi, fughe romantiche e inseguimenti per le vie della capitale, quasi come vivere nel film di Fellini La dolce vita, con i mitici paparazzi di Via Veneto al seguito. Lo scandal, come lo definisce lo stesso Barton, ha inizio. I rotocalchi di tutto il mondo non parlano d'altro e l'affaire Taylor Barton diventa l'argomento per eccellenza. I due amanti vivono però la situazione in maniera differente. Liz ha imparato molto bene a gestire la notorietà. È una diva da quando ha 9 anni, ci è abituata. Invece Richard passa nel giro di pochi giorni da essere un rispettato attore del teatro classico britannico a una celebrità nota in tutto il mondo. Ma poi si rende conto che non può andare in giro a suo piacimento e che tutto quello che fa viene immortalato sui giornali di tutto il mondo. Allora capisce con terrore che questa fama non può essere spenta a suo piacimento. Ma anche Elizabeth ha una grande paura. Deve girare la scena in cui Cleopatra fa il suo ingresso trionfale a Roma, seduta in cima a un'enorme sfinge trainata da decine e decine di schiavi nubiani. 6.000 comparse reclutate tra la folla cittadina devono acclamarla. L'idea di essere trainata in mezzo a tutta quella folla, da sola, là in cima, ero terrorizzata. Pensavo, mi insulteranno, mi lapideranno, mi diranno che sono una svergognata, una madre snaturata. E invece accade qualcosa di straordinario. Quella folla di 6.000 persone, romani moderni che interpretano romani antichi, deve acclamarla al grido di Cleopatra, Cleopatra. E invece tutti si mettono a gridare Liz, Liz. L'attrice non riesce a trattenere le lacrime. Lassù, in cima a quell'immensa sfinge, sente l'affetto di tutti e alla fine delle riprese ringrazia commossa. Il pubblico, il grande pubblico, è dalla sua parte, dalla parte dell'amore. Le riprese infinite di Cleopatra giungono al termine. Il film è costato uno sproposito e non è neanche considerato poi un granché. Ma la storia d'amore dei due protagonisti crea un tale scalpore che tutto il mondo attende di poterlo finalmente vedere. Anche perché chi pensava si trattasse di una montatura pubblicitaria inventata dai produttori deve ricredersi. Dopo i due rispettivi e chiacchieratissimi divorzi, il 15 marzo del 1964 Elizabeth Taylor e Richard Barton si sposano. È il matrimonio più turbolento della storia del cinema e uno dei più famosi del mondo, che vede i due divi protagonisti di una passione tangibile, ma anche di litigi furibondi, riappacificazioni a colpi di diamanti da 30 carati, ricoveri per disintossicarsi dall'alcol e il mondo intero a fare il tifo per loro. Trovo che il litigio, un litigio assolutamente folle e pazzo, sopra le righe, sia di per sé un'ottima maniera, direi un favoloso esercizio per vivere il matrimonio. È elettrizzante. Specialmente se non si attaccano ai punti deboli dell'altro. Ecco, questo è importante. I punti deboli ci sono, ognuno ha i suoi, ma vanno lasciati lì, a parte, non vanno inclusi nella litigata. Se io insulto Elizabeth, cosa che faccio di frequente, non attacco mai le sue parti deboli. Entrambi abbiamo il problema di essere attori, e questo ci porta a litigare spesso. Dal giorno del loro fatidico incontro sul set di Cleopatra, le vite dei due attori non saranno mai più le stesse. Non solo nel privato, con i rispettivi divorzi e il matrimonio, seguito a breve dall'adozione di una bambina tedesca, Maria, ma anche per le loro carriere di attori. Quello che Elizabeth cerca di fare fin da giovanissima, e cioè recitare sempre in ruoli che in qualche modo rispecchino la sua vita, diventa sempre più una costante. I film nei quali recita con Richard risultano la rappresentazione delle loro vite vere, in un'identificazione sempre più profonda tra recitazione e realtà. L'elenco delle pellicole nelle quali i due divi portano il loro rapporto travagliato sul set è lungo e ricco di successi. International Hotel, Castelli di sabbia di Vincente Minnelli, Chi ha paura di Virginia Woolf di Mike Nichols, per il quale Liz vince l'Oscar nel 1967. I commedianti, Dottor Faustus, La bisbetica domata di Franco Zeffirelli, La scogliera dei desideri, fino al film per la televisione Divorzia lui, divorzia lei, titolo quanto mai premonitore di quello che sta per accadere. Tra breve, qui. A destini incrociati. And he's half in love with Elizabeth. And he's half in love with you. Destini incrociati. Ecco quello che è mio marito. Un topo, sì, anzi un pidocchio, o meglio uno scarafaggio, un rospo. Ecco, un rospo. Sei un rospo. Ehi, rospaccio! Sì, amore. Desideri qualche cosa? Ma certo. Potresti accendermi la sigaretta, se ne hai voglia. No, a tutto c'è un limite. Uno può subire fino a un certo punto senza scendere un piolo o due nella scala dell'evoluzione. E qui siamo nel vostro campo, quindi io posso tenerti per mano quando è buio e tu hai paura dell'orco, o seppellire le bottiglie di gin che hai scolato affinché nessuno le veda, ma io non ti accenderò la sigaretta. E questo, come si dice, è quanto. È un dialogo dello stupendo film Chi ha paura di Virginia Woolf, di Mike Nichols, che Elizabeth Taylor e Richard Burton interpretano nel 1966. La vicenda di Martha e George, una coppia di sposi che conduce una vita monotona odiandosi, che litigano furiosamente rinfacciandosi le cose più orrende, che si ubriacano fino ad annichilirsi, sembra rispecchiare perfettamente il matrimonio dei due divi. Incapaci di lasciarsi, ma incapaci di stare insieme, i due personaggi arrivano all'autodistruzione. E questo sembra essere il destino anche dei due attori. Un'interpretazione talmente vicina alla vita reale da far vincere a Elizabeth Taylor il suo secondo Oscar. E se il primo ricevuto per Venere in visone è offuscato dal dubbio che l'attrice lo abbia ricevuto per pietà, avendo rischiato di morire di polmonite, questo secondo è la vera e definitiva consacrazione delle sue indubbie doti di attrice. Il peso mediatico pressante e il carattere ribelle e litigioso dei due divi li porta infine alla rottura e al divorzio, dopo 10 anni di matrimonio burrascoso. Ma i due, se non possono stare insieme, sembra non possano nemmeno stare l'uno senza l'altra. Richard Burton scrive una lettera straziante alla Taylor. Ti amo, donna stupenda. Se qualcuno ti fa del male, mandami un messaggio. Basta che tu scriva «Ho bisogno», o una sola magica parola, «Elizabeth», e arriverò più veloce del suono. Sai di certo quanto ti amo, sai di certo quanto male ti ho trattato. Ma la verità fondamentale, perfida, assassina e immutabile, è che io e te ci fraintendiamo totalmente. Funzioniamo su diverse lunghezze d'onda. Ti amo e sempre ti amerò. Torna da me prima che puoi. Il prima che puoi arriva ben presto. Dopo appena un anno, Liz e Dick ritornano ad essere una coppia. Si risposano il 10 ottobre del 1975 e il mondo intero ritorna a sognare. L'attrice è convinta che questa volta sarà per sempre. È lui l'uomo della sua vita. Senza di lui non può vivere. E così pensa a suo marito. Ma si sbagliano entrambi. Il secondo matrimonio tra Elizabeth Taylor e Richard Burton è ancora più disastroso del primo, se possibile. Litigi furibondi, ubriacature colossali e valigie gettate dalle finestre degli hotel di lusso, paparazzi che vivono costantemente al loro seguito. Una foto di uno dei due divi, per non parlare di tutti e due insieme, può rappresentare per un fotografo un guadagno stellare, per una rivista di gossip uno scoop da ristampe esaurite. Elizabeth sente di non poter reggere nuovamente tutto questo. Richard comprende che la sua autodistruzione è arrivata al capolinea. Una fermata alla quale deve scendere a costo della sua stessa vita. E dopo 9 mesi arriva il secondo divorzio, e con esso la fine di un sogno e di un incubo, la speranza di un rientro in una vita che possa essere in qualche modo più vivibile. È la stessa attrice a confermarlo. Eravamo innamorati in una maniera così appassionata, così intensa, che tutto era... sembra assurdo, era troppo. Ci amavamo troppo. Sembra stupido dirlo. Era così intenso che era quasi abnorme. È stato bello, bellissimo. Ci siamo sempre pensati, abbiamo sempre parlato. Ci siamo sempre amati, anche dopo i divorzi. Se mangiavamo insieme ci toccavamo i piedi sotto i tavoli. È stato l'amore della mia vita. Nonostante altri 2 matrimoni dell'attrice, il 7° con il senatore John Warner e 8° con Larry Fortensky e quello dell'attore con Sally Hay, tutto il mondo continua a considerare Elizabeth Taylor e Richard Burton la coppia più bella mai esistita. E quando l'attore muore per emorragia cerebrale il 5 agosto del 1984 a soli 59 anni, Elizabeth si sente disperata e per la prima volta nella sua vita davvero sola. Qualche giorno dopo riceve una lettera, l'ultima scritta dal suo Dick poche ore prima di morire, che nessuno oltre a lei leggerà mai e con la quale la diva chiederà di essere sepolta. Richard era magnifico, in ogni senso della parola, e in tutto quello che faceva, sulle scene, sul set, e anche quando faceva l'amore, per me almeno. È stato il padre più gentile, divertente e sensibile che si possa immaginare. Tutti i miei figli lo hanno sempre adorato. Attento, affettuoso. Ecco com'era Richard. Ha mantenuto intensi legami con tutti noi fino alla sua ultima ora. Sapevamo di poter contare sempre su di lui, per qualunque cosa. E io sarò sempre convinta nel profondo che ad un certo punto ci saremmo risposati per la terza volta, definitivamente. Fin da quei primi momenti a Roma, siamo sempre stati follemente e intensamente innamorati. Ne abbiamo avuto di tempo, ma non abbastanza. Negli ultimi anni della sua vita, Elizabeth Taylor continua le sue molteplici attività. Fonda la House of Taylor Jewelry, dato il suo grande amore per i gioielli. Ne possiede di magnifici, la maggior parte regalati da Richard, come il famoso diamante Krupp da oltre 33 carati e il Taylor Burton, un diamante impareggiabile, regale, di quasi 70 carati. Si dedica alla causa di Israele, essendosi convertita all'ebraismo in gioventù, e coltiva amicizie importanti come quella con Michael Jackson, che per lei scrive una meravigliosa canzone. Si spegne dopo una lunga malattia e tutti i giornali del mondo ne danno l'annuncio commossi, definendola una leggenda senza tempo, una donna che ha amato troppo e troppo è stata amata. Welcome to Hollywood. That's what they told you. A child star in Hollywood. That's what they sold.